fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con il... Che siamo in diretta, scusa, non abbiamo capito. Risto Radio Convento, ma non vi potete fare queste cose però ragazzi. Siamo proprio in capezzolo, Ricky. Smettila. Dai, no ragazzi, no, non lo vogliamo vedere ragazzi. No, stai tranquillo tu, ecco. Calmo. Sto facendo una cosa seria. Cerchiamo di essere seri. Ecco. Allora, vai. In tutto ciò, io come vi chiamate? Non so neanche come vi chiamate. Allora, ciao, io mi chiamo Alessandro. Io Vito. Da dove venite? Veniamo dalla provincia di Monza e Brianza, precisamente da Verdere, da Cornate d'Adda. E siamo qui a festeggiare un addio al celibato. Sembriamo sani, ma non lo siamo. Ottimo. Possiamo fare piacere. Un saluto a Mattia. Un saluto a Mattia, che è lo sposo. E un saluto. No, vai via. Tu, scusatemi. No. Non ti vogliamo, scusami. Vai via. Mi dispiace, ma questa è una cosa molto riservata, solo ai migliori. Sì. Tu devi andare via, va bene. Non ci interessi, va bene? Prego. Prego, avanti il prossimo. Andiamo avanti. Stavi dicendo? Che noi arriviamo dalla provincia di Monza e Brianza, da Verderio e da Cornate d'Adda per la precisione. Siamo Alessandro e Vito e siamo qui a festeggiare l'addio al celibato. L'addio al celibato di Mattia Crippa, che si sposa con Ilaria di Cornate. Che sposa? No, guarda quanti va a fare quello che mi arriva, non l'ho visto. Mamma mia, ma questi sono proprio scostumati. No ragazzi, però non possiamo fare entrare tutta questa gente, dobbiamo rimanere in luce. No, okay, facciamo entrare, sì. Entriamo noi. Dai, altrimenti non riesco a starvi dietro. Tu stai dietro me, con lui lascialo stare. Lo lascio perdere? Va bene, Alessandro, giusto? Sì, Alessandro. Abbiamo recuperato una sposa. Come si chiama la sposa? Sara. Ciao Sara. Che piacere. Questa gabbia di matti è anche qui dentro nella radio. Ah, siamo in radio? Certo. Ebbene, non sì, te Sara. Lo aspettavi. Questo è il bello della diretta, Sara. Ci hai legato per tutta sera, ma noi siamo dei DJ radiofonici. Adesso come facciamo? Come la mettiamo? O meglio, guarda per i zombie. Ma sono fatte... tu quelle mutande? No, sono tu. Me le hanno messe. Mio Dio, volano mutande al convento, ragazzi. Volano mutande al convento, ragazzi, venite. Hashtag volano mutande al convento. Accorrete tantissime, che le mutande volano a qualsiasi ora. La mutanda della sposa è in giro. Soprattutto le mutande della sposa, sì, perché l'ho vista bianca. Era bianca, secondo me, la mutanda della sposa. Hai avuto qualche problemino? Me l'hanno data loro. Non vuole confessare. Nessun tipo di ciclo, niente. No. Ok, perfetto. Ma è la sposa che non vuole confessare che adesso è senza mutande. Ah, sì, senza mutande. Ce le ho. No, non è lei. Ce le ha, le ho viste. Ce le ha. Le trovate per terra? Ce le ha le mutande. Sara ce l'ha le mutande. Saluto Sara. Saluta Sara. Ciao Sara. Ciao. Allora erano di Sara le mutande, ragazzi. Le mutande erano tue? Può essere. Sì, erano tue. Sì. Guarda, è la sua la mutandina. No, sì. Oh, parliamo di cose serie. Allora, dai, parliamo di politica. Politica, vai. 16 giugno. Cosa c'è? Le elezioni il 16 giugno? Sì. Sì, ti sposi? Mi sposo! Ah, ti sposi, Sara! Auguri, Sara! Un augurio a Sara, bravo! Applauso, Sara, che si sposa con... Eugenio! Ma ciao! Ma siete voi! Sì! Guarda, questa è la radio dei pazzi. Sì, siamo noi! Ma chi è? E vai! Ci sta tutto qui dentro. Almeno. Non ho capito niente ragazzi, no, cosa sta dicendo? Ma questa non è la radio dei fuori di testa, allora, però Allora cioè, ma ritorniamo un attimo in noi. Allora, tu come ti chiami? Guarda, la vedo tutta gasata. Come? E chi è? Cosa ha bevuto la ragazza? Allora, i cocktail al convento, ragazzi, sono veramente buoni. Venite tutti e prendete il cocktail. No, scusami, è Maglia Arancione. Come si chiama? Scusa, come ti chiami? Amica Orange. Ragazzi, la regola numero uno della radio è fare chiarezza. Come ti chiami, Maglietta Arancione? Allora, Ilaria. Ilaria. E non è la sposa del mio amico. Ilaria, te lo devo dire però, te lo devo dire. Sei perché entrata senza neanche salutare. Amore, ciao. Quanta antipatia in questo mondo. Ma non esiste. Cioè il bisogno di saluto. Va bene, va bene. Va bene. Io vedo che comunque ti cercano, eh. Io ti lascio andare. No, no, vabbè, se volete lasciarmi andare, io me ne vado. Vedo che comunque sei ricercato fuori. Le persone veramente brutte che. Sì. Ma da fuori si sente. Esatto. No, no, non si sente. No, non si sente. No. Maddi, chiamiamo Maddi. Mi dispiace, ma. Ma è qui. Comunque, ragazzi, certo, venite al convento che è un. Ma non, si, non risponderà mai, Maddi. È una location stupenda per poter festeggiare qualsiasi cosa. Maddi. Va bene. Chiamo Maddi. Fai quello che ti pare. Sono amiche di Sara. Ma poi sì. Tipo andare a dirgli a Maddi tipo di avvicinarsi. Ma, niente. Va bene, ragazzi, io vi Maddi saluto non... così vi organizzate. Grazie mille. Perché in un momento mi ha detto andiamo a casa. Yeah.